Focus Economia. Con Simone Spezia. Buonasera care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a Focus Economia. 349-238-6666 come sempre per i vostri sms. La giornata di oggi, il menù della giornata di oggi comprende ancora una volta, come è naturale, la legge di stabilità, perché è di questo che si continua a discutere in queste ore. Sono iniziate le audizioni in Senato, nelle commissioni del Senato, per sentire che cosa hanno da dire le varie parti. Oggi è stata la volta di Confindustria. Nel frattempo continuiamo a fare i calcoli su quanto ci costerà questa benedetta, maledetta service tax che andrà a sostituire IMU e TARES. Ebbene, i comuni tornano a battere casse, dicono: se non volete che alziamo l'aliquota sulla TASI, perdonate, io non ce la faccio più con questi acronimi, però è così, TASI, che è il tributo, la tassa sui servizi indivisibili, aliquota che è all'1 per 1000 di base, che i comuni possono portare al 2,5 per 1000. Se il governo non ci dà altri soldi, sicuramente o quasi sicuramente saremo costretti ad alzare questa aliquota, il che complica tutto, nel senso che ci si potrebbe trovare, e già le proiezioni in parte lo indicano, con una service tax che costa più di IMU e TARES messe insieme. Parleremo di tasse anche per un altro motivo. Oggi c'è stata una storia interessante che vogliamo provare a raccontarvi, che arriva da Milano, dove un giudice per le indagini preliminari ha deciso di assolvere un imprenditore dall'accusa di evasione fiscale, 180.000 euro di IVA. Perché? Perché l'azienda era in crisi economica. Insomma, in realtà lui aveva ammesso tranquillamente con l'Agenzia delle Entrate che doveva questi soldi, ma che non ce la faceva a pagarli. Il GUP, appunto, ha deciso di assolverlo. Parleremo con l'avvocato. Parleremo anche di euro, perché oggi ha toccato i massimi da 2 anni a questa parte e naturalmente ci sono un bel po' di preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda le nostre esportazioni. Infine toccheremo il tema del settore auto. Oggi si riunisce un tavolo sul settore auto al Ministero dello Sviluppo Economico, ma soprattutto c'è questa notizia data oggi con giustamente un grande risalto dal Sole 24 Ore, questo calcolo secondo il quale nel 2012 la produzione italiana è scesa al di sotto delle 400.000 auto e in pratica ci si rischia di ritrovare con una produzione nel 2013 in linea con il 1958. Avete sentito bene, 1958. Parleremo di questo e parleremo anche del perché ci sono altri paesi che da questo punto di vista vanno meglio, Spagna compresa. Questi i nostri temi di approfondimento. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve di oggi. E sì, non vi ho detto come vanno i mercati vanno bene oggi, ci mancherebbe altro dopo la botta di ieri, più 1,03% sul FTSE MIB, più 1% sul FTSE All Share, recuperano qualcosa le banche, certamente non quello che hanno perso ieri, Popolare Emilia Romagna il 5,64%, Mediolanum il 4%, Bibanca il 3,75%. E va bene anche il resto d'Europa. Insomma, si recupera Milano, ma non tanto quanto ha perso ieri. Materie prime, come sempre, in apertura di questa parte, con l'oro che sale a 1.344 dollari l'oncia, un più 0,7%. Petrolio in calo, tanto il WTI, quello quotato a New York, a 96,15 dollari al barile, quello con consegna a dicembre, meno 0,73%. Per quanto riguarda il Brent, sempre consegna a dicembre, calo dello 0,58, 107,17 dollari al barile. Dell'euro vi abbiamo detto, sopra quota 1,38 ai massimi dal novembre 2011. Veniamo a qualche dato che arriva dalla Cina. notizie che arrivano dalla Cina. Una crescita superiore alle previsioni dell'indice manifatturiero, che segna ad ottobre 50,9 punti rispetto a una previsione che indicava 50,4. E poi Walmart, che continua ad investire in Cina. La scorsa settimana ha annunciato la chiusura di 25 negozi, adesso ne annuncia l'apertura di, apertura di 110 punti vendita tra il 2014 e il 2016. 30 già quest'anno, eh. Standard & Poor's. Cattive notizie per l'Italia. Si aspetta che il PIL italiano chiuda il 2013. Oddio, cattive. In realtà sono in linea più o meno con quel che abbiamo sentito fino adesso. Si aspetta che il PIL italiano chiuda il 2013 con un calo dell'1,8% e quello spagnolo dell'1,5%. In un contesto di paesi periferici dell'euro che viene considerato difficile. Vabbè, questo lo sapevamo. E ricorda il suo downgrade dell'Italia a luglio, il suo abbassamento di giudizio, come esempio dei rischi che rimangono in alcuni paesi nonostante visibili miglioramenti. Buone notizie invece per la Spagna, relativamente buone, perché il livello di disoccupazione resta molto alto, al 25,98%, insomma al 26%. No, sì, al 26%, scusate. Cala però dal 26,3% del secondo trimestre. Migliore il dato delle attese degli economisti, che prevedevano un tasso al 26,1%. Il settore auto, si diceva, il settore auto. Verremo più avanti a quello italiano. Vi abbiamo detto qual è la notizia, qual è lo studio che indica una produzione 2013 che potrebbe essere pari a quella del 1958. Invece nel Regno Unito la produzione in settembre è tornata ai livelli pre-crisi, i massimi da 5 anni, grazie alla crescita della domanda interna e all'esplosione delle esportazioni. 79% della produzione è destinata all'estero. Produzione tra settembre 2012 e settembre 2013 di 1,5 milioni di auto, più 9% rispetto all'anno precedente. Il tutto trainato dal lusso verso i mercati russo e cinese, Jaguar e Land Rover. Parla invece di piccole e medie imprese il Presidente della Commissione Europea, José Manuel Durão Barroso. Si dice deluso dagli Stati membri che non hanno fatto abbastanza per aiutare le PMI, per ridare credito all'economia reale. L'Italia, abbiamo un dato sulla fiducia dei consumatori che torna in calo ad ottobre. Indica l'Istat un forte peggioramento del clima economico. A 97,3 punti dopo aver raggiunto i 100,8. Questo è il quadro nel quale si inserisce la legge di stabilità ed è questo il primo argomento che andiamo a trattare. Come sta la gamba ai Barisoni, chiedete? Adesso non ho dettagli quotidiani sul quadro clinico di Sebastiano Barisoni. Comunque tornerà, ve l'ho detto. Adesso non sappiamo esattamente quando, comunque torna. Le audizioni in Senato sulla legge di stabilità 2014. Dice il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, un grido, se vogliamo, un grido, insomma, al quale sentiamo di unirci: dateci un paese normale. Dateci un paese normale e gli italiani sapranno far vedere di cosa sono capaci. Dice: noi imprenditori crediamo nel futuro, crediamo nel paese che è competitivo ed è il secondo paese manifatturiero in Europa. Dobbiamo essere ottimisti, abbiamo la forza per venirne fuori, ma ci vuole anche lo Stato, dice Squinzi. Sulla legge di stabilità, i primi passi vanno nella direzione giusta, ma assolutamente insufficienti per dimensione e velocità. Sentiamo Squinzi. Le scelte effettuate sono ancora distanti da quelle auspicate, avendo il governo privilegiato un approccio di cautela, prudenza e attenzione all'obiettivo del rispetto del saldo di bilancio, pur doveroso. Lo schema individuato, condivisibile perché interviene su alcuni dei principali nodi che frenano le imprese, è ancora insufficiente sotto il profilo delle risorse, se l'obiettivo è dare una svolta e imprimere un'accelerazione all'economia. Siamo fortemente convinti che la legge di stabilità deve segnare il vero spartiacque tra la stagione del rigore e quella dello sviluppo, consentendo di robustire quei primi germogli di ripresa che iniziamo ad intravedere. Oh, vorrei invitare l'ascoltatore che ha scritto al 349-238-6666, che sappiamo solo dare notizie negative, per cortesia di darcene lui qualcuna. Aspettiamo via SMS qualcuna positiva. Mica siamo cattivi noi, è l'economia che è messa male. Ancora Squinzi, è importante che il Parlamento mantenga l'impianto della manovra, quindi, come dire, l'impianto generale non è che va male, è che la forza d'urto è assai ristretta. Sentiamo. Confindustria condivide l'impianto della manovra governativa, ma per renderla più efficace chiede con forza, ben inteso con l'assoluto rispetto dell'indipendenza e la sovranità del Parlamento, di aumentare le risorse a favore del taglio del cuneo fiscale. Ciò non per una finalità legata a meri interessi di impresa, bensì perché ritiene che il Paese possa entrare nella scia di un trend positivo solo se avremo il coraggio di scommettere tutti insieme, ognuno per la propria parte, sulla ripresa. E questo per noi, ma non solo per noi, significa credere nel sensibile abbattimento della pressione fiscale per i lavoratori e per le imprese. Ecco, però, per favore, insomma, magari mandateci qualche SMS con segnale di ottimismo, come dicevamo all'ascoltatore prima, però non mettiamoci nemmeno a dire questo con quest'aria, sempre via SMS, già. Facciamo vedere di cosa siamo capaci, l'evasione e la corruzione. Ma che vuol dire? Ci sono intere parti del paese, e in realtà sono la maggioranza, magari silenziose, ne sentiamo parlare meno, che lavorano duro e lavorano tosto, imprenditori ma anche lavoratori dipendenti, anche interi pezzi del pubblico impiego, che di solito trattiamo molto male, ma c'è gente là dentro che lavora benissimo. Quindi, insomma, non è che il paese è fatto solo di evasione e di corruzione, anzi. Dice Squinzi, è essenziale che si smaltiscano integralmente i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese. La stretta del credito rimane un ostacolo da rimuovere. Il parziale, ma lento, troppo lento, pagamento degli arretrati della pubblica amministrazione, oltre ad essere un atto dovuto, ha iniettato liquidità nel sistema e sta consentendo di salvare molte imprese, moltissimi posti di lavoro. Nella direzione giusta, ma per un ammontare soltanto di 500 milioni nel 2014, va l'allentamento del patto di stabilità interno per gli enti territoriali, finalizzato ad accelerare lo smaltimento dei debiti pregressi per spese in conto capitale della pubblica amministrazione, anche fuori bilancio. Ricordo sul tema i 2,8 miliardi che il governo si era impegnato a stanziare con la nota di aggiornamento al DEF. Esprimo in questa sede la preoccupazione dovuta al mancato completamento, nonostante la scadenza che era stata fissata al 15 settembre scorso, che mi era stata confermata dall'allora ministro Grilli e da Fortunato, della ricognizione dei debiti pregressi della pubblica amministrazione ancora da pagare. Una quantificazione essenziale affinché con la legge di stabilità si provveda allo smaltimento integrale dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese. E qua vi volevo, che stanno arrivando le buone notizie. Ci scrivete: una notizia bella, sto tornando a casa da mia moglie e dai miei figli. E Daniele da Monza che dice: a Milano ha smesso di piovere. Non so, non guardo fuori da qualche minuto. Bene. Veniamo ai sindacati. La voce della leader della CGIL, Susanna Camusso, raccolta oggi da Riccardo Porcu. Si sa che la legge di stabilità, in assenza di una nuova contrattazione europea, deve stare dentro i vincoli dati e quindi dentro i saldi che sono immaginati, lo sappiamo benissimo anche noi, però dire che non vada stravolta probabilmente è insufficiente ad ottenere invece le modifiche che noi vogliamo, perché bisogna cambiarne l'impostazione, bisogna cambiare l'impostazione di dove vengono le risorse e dove vanno le risorse. In particolare c'è un tema fondamentale in questa legge di stabilità, che non c'è equità e non c'è un cambiamento delle tendenze. E se la ragione della crisi del nostro paese, della perdurante recessione del nostro paese, deriva dal tema dei consumi, bisogna mettere molte risorse sui redditi medio-bassi, sui redditi da lavoro e sulle pensioni. E per farlo bisogna, oltre che intervenire sull'aumento della spesa, sulla qualità della spesa pubblica, bisogna intervenire sulle rendite, sui patrimoni, su dove ci sono ricchezze che sono aumentate durante la crisi mentre si impoverivano i lavoratori e i pensionati. Confesso una passione smodata per i complottisti, scrive Massimo da Firenze. Lo sapete bene che dipende tutto dal Bilderberg, con la N poi, è Bilderberg, Massimo. Sempre al microfono di Riccardo Porcu, il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, afferma di condividere le preoccupazioni espresse da Confindustria sulla struttura della legge di stabilità. Con Confindustria c'è un'opinione pressoché identica, e tant'è vero anche le preoccupazioni di Squinzi sono state molto chiare in questo senso. Ecco perché chiediamo a Letta di convocarci, perché sì, il Parlamento deve discutere, però il Parlamento deve avere anche una direzione, altrimenti accadrà quello che dice Squinzi, ognuno farà quello che vuole. È importante che le parti sociali esprimano compiutamente una loro opinione e che il governo le raccolga, e il Parlamento a quel punto ci lavori sopra. Al contrario, mi sembra stimolare solo la polverizzazione dei provvedimenti, delle esigenze, la corporativizzazione di tutta la discussione che sta avvenendo. Altre audizioni di oggi: quello di Rete Imprese Italia. Nella legge di stabilità permane ancora eccessiva timidezza nell'affrontare il problema della spesa, ma soprattutto dobbiamo rimarcare, dicono da Rete Imprese Italia, che poco più di 11 miliardi non rappresentano lo shock del quale l'Italia ha bisogno per uscire dalla recessione, rilanciare gli investimenti delle imprese e i consumi delle famiglie. E poi torna a parlare di nuovo il ministro per gli affari regionali, Graziano Del Rio. Su quale tema? Quello che abbiamo affrontato ieri, questa maledettissima seconda rata dell'IMU, che in realtà tecnicamente è il saldo dell'IMU, 2,4 miliardi di euro da trovare entro la fine dell'anno. Siamo quasi a fine novembre, a fine ottobre, fate voi. Il tema rimane il rischio che la nuova tassazione sulla casa con la Trise, che sostituisce IMU e TARES, con il Trise per meglio dire, perché va quella tista per tributo, possa tradursi in un aggravio per i cittadini. Questo in particolare perché i comuni, come vi dicevamo in apertura e come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, possono decidere se incrementare l'aliquota del TASI, il tributo sulla tassa sui servizi indivisibili. Aliquota dall'1 per 1000 della rendita catastale, e quella era base di partenza, fino al 2,5 per 1000. I comuni battono cassa, nel senso dicono: se volete che non alziamo questa aliquota, beh, insomma, il governo deve sganciare qualche centinaio di milioni in più. Sentiamo. Nell'obiettivo della legge finanziaria c'è un miliardo che lo Stato nazionale ha messo a disposizione dei comuni per fare in modo che vi sia una, come dire, possibilità di non aumentare la pressione fiscale a carico del contribuente, per evitare l'effetto split, ovvero la valutazione che rischia di essere verosimile, secondo la quale da una IMU sulla prima casa uscita dalla porta si ripresenta una service tax che rientra dalla finestra. Questa è la cosa che dobbiamo assolutamente, per ragioni proprio di serietà politica generale, evitare. Basta un miliardo per evitare che si produca l'effetto surreale. Ecco, su questo abbiamo qualche dubbio, ci vorrà probabilmente qualche risorsa in più. Ci dà un'idea di quante risorse ci potrebbero volere? Guardi, io credo fra i 4 e i 800 milioni, nel senso che sono valutazioni... No, mi scusi, non ho capito, tra i 4... Fai 400 e 700 milioni in più rispetto a quel miliardo. Rispetto al miliardo è una valutazione, ripeto, nasometrica, e quindi non ci conterei più di tanto. Vedetela come volete, però nasometrica è stupenda, la valutazione nasometrica. Allora, adesso ci fermiamo, ci prendiamo una pausa, poi andremo a parlare di mercati e poi andremo su questa vicenda dell'imprenditore milanese accusato di aver evaso l'IVA per 180.000 euro, che è stato assolto perché l'azienda era in crisi. Allora, non avendo ancora un controllo della pagina di Focus Economia, della pagina Facebook, stamattina avevo lanciato il tema su quella trasmissione che faccio normalmente dall'una alle due, che è Effetto Giorno. La trovate www.facebook.com/effettogiorno anche per farvi commentare. C'è sempre l'SMS volendo, 349-238-6666. Una pausa. Focus Economia. Eccoci di nuovo, chi si lamentava della base di prima adesso sarà contento. Pare che sia partito una specie di concorso, trova una bella notizia per Focus Economia. Roberto da Vicenza ci dice che ha trovato un lavoro negli Stati Uniti e parte con tutta la famiglia. Ma ci scrive un ascoltatore anonimo: una notizia bella sarebbe quella che Virginia tornasse insieme a me. Virginia, se sei in ascolto, qualunque Virginia tu sia, in qualsiasi parte d'Italia e chiunque tu abbia lasciato, torna con lui. Ne abbiamo bisogno. Allora, continuiamo a parlare di belle notizie. Per dire, naturalmente, non è che si è recuperato un granché rispetto a ieri, in parte si è recuperato, però oggi la borsa è andata bene. Ceo Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera, ciao. Buonasera a tutti. Allora, oggi le cose sono andate bene, insomma, ci mancherebbe altro, dopo la botta di ieri, insomma. Però più 1,28% il FTSE MIB, più 1,22% il FTSE All Share. Vabbè, diciamo che negli ultimi mesi non è che stiano andando male le cose a chi compra in borsa, perché ieri c'è stato qualche realizzo, ma veniamo veramente da tante sedute di rialzo, vediamo tanti titoli che sono o ai massimi storici o ai massimi degli ultimi 2 o 3 anni, quindi insomma ieri sicuramente soprattutto su Piazza Affari ci sono state delle grosse prese di beneficio, e oggi tuttavia proprio Milano è stata la migliore delle piazze del vecchio continente, con un colpo di rene nel finale ha fatto segnare più 1,28% il FTSE MIB, Parigi invece ha fatto solo più 0,35%, Francoforte più 0,68%, Londra più 0,6%, ciò grazie sostanzialmente a due elementi: la buona apertura di Wall Street, dove il Dow Jones guadagna in questo momento 0,5 punto percentuale, poi c'è il dato di questa mattina sulla manifattura cinese di ottobre, manifattura che cresce bene oltre le attese, sicuramente dei buoni segnali dall'economia della Grande Muraglia sono ben accetti dagli operatori di tutto il mondo, insomma. Allora partiamo dal basso, cioè, okay, così poi chiudiamo in bellezza invece con i titoli che sono andati meglio. Partirei da Autogrill e World Duty Free. Qua ci sono in mezzo in realtà operazioni dei Benetton, insomma non è una questione connessa specificatamente a fatti che riguardano la vita aziendale, ma più la vita finanziaria, no? -6,41 Autogrill, -5,96 World Duty Free. Sicuramente oggi Benetton hanno chiuso in bellezza perché hanno collocato il 9% sia di World Duty Free che di Autogrill per un incasso complessivo di 338 milioni di euro. Ricordiamo un po' qual è la storia di queste due società: inizialmente c'era solo Autogrill, poi dal 1 ottobre sostanzialmente la famiglia di Ponzano Veneto ha deciso di scorporare le attività di ristorazione degli aeroporti appunto in World Duty Free. Poi diciamo i titoli hanno avuto un rialzo abbastanza significativo nelle ultime sedute e alla fine è arrivato il collocamento che del 9% a testa sia per Autogrill sia per World Duty Free, che appunto ha portato nelle casse dei Benetton 338 milioni e ha portato alla loro partecipazione poco sopra il 50%, il 50,1% del capitale. Come spesso accade in queste situazioni, un collocamento in borsa di una dote così importante di titoli poi porta anche i titoli a vedere le quotazioni ridimensionarsi in modo significativo. Per quanto riguarda, va bene, ST Microelectronics è il seguito di ieri, insomma -2,08%, ieri era stato il titolo peggiore del listino, aveva perso mi pare intorno al 9%, il seguito di ieri, no? Brutta trimestrale, prospettive negative, è quello. Sì, assolutamente, poi slitta questo target per il raggiungimento del margine operativo attorno al 10%, era un po' il target che si era posto alla società, è stato spostato a metà 2015, questo ha generato un po' di nervosismo tra gli operatori, ieri ha fatto, come giustamente ricordavi tu, -9%, oggi un altro -2%. Finmeccanica non era partita malaccio oggi, poi un -0,63%, pesa ancora l'annullamento della commessa per Augusta Westland da parte dell'India? Beh, diciamo che pesano un po' di fattori, tra cui anche il forte rally che era, di cui aveva giovato il titolo, si era giovato il titolo nel diciamo dopo l'avvio della campagna di dismissioni, adesso c'è un po' di attesa per quella che saranno le ulteriori nuove dismissioni di Finmeccanica, una strada obbligata per una società che è chiamata a risanare i conti, insomma, dopo la gestione degli ultimi anni. Bene complessivamente i bancari, naturalmente recupero rispetto a ieri. Allora, Popolare Emilia Romagna +5,57%, Mediolanum +4,05%, UBI Banca +3,95%, Gitec invece +3,92%. E qui oggi è arrivato diciamo il bollino finale da parte del Senato al decreto che prevede una sorta di sanatoria fiscale per le società dei giochi legate a una diatriba lunghissima sulla questione delle slot machine. Non stiamo qua a spiegare poi i termini insomma legali della questione, ciò che conta è che sostanzialmente queste multe vengono ridotte dell'80%, scusate, l'ipotesi iniziale è del 75%, quindi sostanzialmente Gitec anziché pagare 100 milioni pagherà 20. Anche se in realtà le concessionarie sembrano non intenzionate a pagare perché vogliono arrivare fino all'ultimo grado di giudizio, si erano dichiarate contrarie, come dire, a questa ipotesi. Allora, bene anche le utilities oltre che le banche. Eh sì, anche le utilities ieri avevano perso terreno, un po' vediamo società come A2A, come Enel, che poi sono società indebitate e impegnate nella riduzione dell'indebitamento, che quando vanno giù le banche vanno giù, insomma anche loro. Oggi invece una buona ripresa, Eni fa +3%, anche qui siamo sui massimi da diverso tempo, anche A2A è tornata a guadagnare terreno, fa +1,06%, qui il titolo ha imboccato una strada rialzista già da parecchio tempo, c'è attesa per i conti che arriveranno a inizio novembre per vedere se appunto anche in questo caso la strada della riduzione del debito è imboccata in maniera corretta. Ci chiedete di Unicredit, dite cosa succede, è una settimana che si è bloccato, come mai? Non penso che sia successo niente di particolare, in realtà non è poi così bloccato, cioè perché ha fatto, se vedo bene dai dati, un -3% nel giro di una settimana, cioè non è, si comporta più o meno come gli altri, no? No, assolutamente sì, insomma è una banca che ultimamente non è sotto la luce dei riflettori, sarà interessata come le altre principali banche poi a un'eventuale revisione dei criteri per la valutazione dei crediti incagliati. Come sappiamo, i principali banchieri sono stati poi convocati dalla Banca d'Italia all'inizio di novembre, però insomma non si discosta da quello che è il destino delle principali banche italiane. Grazie a Ceo Condine, grazie di Radio Cor, Il Sole 24 Ore. Altra notizia di mercato importante di oggi è che l'euro ha superato quota 1,38 contro dollaro. Ne parleremo tra poco. Adesso in realtà è 1,3797. Insomma, detto ciò, è arrivata ai massimi da due anni a questa parte. Più avanti, nella seconda parte della trasmissione, torneremo a parlarne, soprattutto per capire un attimo che impatto può avere questo per un paese ad alto tasso di esportazione che con un mercato interno completamente bloccato spera proprio sulle esportazioni per agganciare quel po' di ripresa. Un ultimo sguardo agli altri titoli che non vi abbiamo dato. Bene anche Xoro oggi più 3,5%, Mediobanca più 3,3%, Banco Popolare altrettanto, Enel si diceva più 3%, Azimut più 2,21%, 2 punti percentuali di guadagno per CNH, 1,9% per la Popolare di Milano, così come per Fiat 1,8% per Enel Green Power, Fondiaria assai guadagna l'1,6%, 7 di Assoni in 1,5%, così come Intesa San Paolo e Tenaris, l'1,3 Saipem, altrettanto Snam, l'1,2 Generali, Ferragamo più 1,17%, 1 punto percentuale di guadagno o poco più anche per Buzzi Unicem, A2A, poco meno per Atlantia, Terna, Eni e Tots che guadagna lo 0,63%, Mediaset 0,5 punto percentuale, Pirelli altrettanto, così come Unicredit appunto, Monte dei Paschi più 0,41, Parmalat più 0,16, Campari insomma siamo più o meno a ridosso della parità, Ansaldo meno 0,2, così come Telecom Italia, Prismia 0,5 punto percentuale di calo, Finmeccanica lo abbiamo detto meno 0,63% e gli altri ve li abbiamo dati. Migliori e peggiori sul listino principale, visto che ogni tanto ce lo chiedete, Mondo TV France meno 6,57%, Autogrill e World Duty Free i peggiori, Landi Renzo la migliore più 8,34%, Era più 6,78% e Credito Bergamasco più 6,6%. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo e parliamo di quella vicenda che si diceva, l'imprenditore assolto dopo essere stato accusato di aver evaso l'IVA per 180.000 euro. Focus Economia. La vicenda fa e farà sicuramente discutere. In realtà non è il primo caso, non è propriamente il primo caso. Però probabilmente è il primo caso o uno dei primi in questi termini. Altri imprenditori erano stati assolti dall'accusa di evasione fiscale perché avevano preferito, piuttosto che pagare le tasse, pagare i fornitori e i dipendenti. La storia è questa, un imprenditore milanese accusato di aver evaso l'IVA per 180.000 euro è stato assolto dal GUP di Milano Carlo De Marchi. È stato prosciolto perché il fatto non sussiste, mancava la volontà di omettere il versamento, l'azienda era in crisi. Marco Petrone è avvocato ed è l'uomo che ha difeso, insomma, se fa parte dello studio, è proprio lui che l'ha difeso, insomma, che ha difeso questo imprenditore. Buongiorno Petrone. Buongiorno. Anzi, buonasera, se mi scusate, abbia pazienza. Allora, ci spiega i termini della cosa, perché qua già si sta dibattendo moltissimo, ho fatto la domanda sulla pagina Facebook perché dovevamo sentirci già stamattina per un'altra trasmissione e molti dicono, insomma, il più efficace tra i messaggi è questo. Angelo Serra scrive: chi ha famiglia ed è disoccupato può rubare? Insomma, no, capisce che dal punto di vista... La questione va posta in un altro termine. Nel senso che, innanzitutto mi permetto di fare una piccola precisazione, non è stato assolto perché il fatto non sussiste, ma perché il fatto non costituisce reato. È una cosa un po' diversa, ma mi rendo conto che è una cosa tecnica, è una questione tecnica, però dal punto di vista concreto cambia molto. Nel senso che il fatto non sussiste è una questione diversa, il fatto non costituisce reato significa che il fatto c'è, però non c'era la volontà di commettere il reato. Mm. Quindi benissimo. Chiaro, benissimo. Poi insieme all'altro collega, l'avvocato Luigi Giuliano Martino, abbiamo difeso questo imprenditore. Per quanto riguarda però quello che è in relazione al settore penale, perché spieghiamo per chi ci ascolta che la l'IVA va pagata, le tasse vanno pagate e qualora ci sia un mancato pagamento superiore a 50.000 euro, oltre alle sanzioni che ci sono tributarie, quindi con i vari interessi, si ha anche una sanzione penale che va dall'arresto da 6 mesi a 2 anni. Ed era esattamente 6 mesi quello che attendeva l'imprenditore in questione. Esatto, esatto, è stato condannato 6 mesi con pena poi convertita. Dunque, ci spiega il senso di tutto ciò, perché le ripeto, insomma, ci sono molti ascoltatori che dicono anche... le leggo questo, no? Nicola Gaetano, sempre sulla pagina Facebook, dice: è la dimostrazione che in questo paese non si capisce più niente. Anche due dei tre poteri dello Stato sono scollati tra loro per visione, ma anche per interpretazione dello stato dell'arte. Perché è una sentenza che nei fatti apre un mondo, no? Perché quanti imprenditori che abbiamo anche all'ascolto sono in crisi in questo momento e probabilmente non hanno i quattrini per pagare le tasse e per pagare l'IVA, e quanto si sentono sollevati, per così dire, da una sentenza di questo genere? Beh, certamente, ovviamente non è una cosa automatica, ma ogni situazione è a sé stante. Noi nel caso specifico avevamo la documentazione che dimostrava proprio la mancanza di volontà, cioè le scritture contabili erano state tenute correttamente, tutto quello che poteva essere fatto come pagamenti era stato fatto, le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate erano state fatte, quindi a un certo punto, se le risorse economiche non sono più presenti all'interno dell'azienda, oltre ad avere giustamente l'Agenzia delle Entrate che pressa per rientrare dei soldi che il contribuente deve dare, perché l'imprenditore deve avere anche una sanzione penale quando comunque non ha avuto la possibilità di pagare? La crisi riguarda l'impresa in sé per sé, per quanto riguarda la propria struttura, ma anche inserita all'interno di una struttura, diciamo, di un paese che è già in crisi. Ma quindi che cosa resta in piedi in sostanza? Una causa civile, tributaria? Di la che parte tipo? Tributaria va avanti per conto suo, l'imprenditore rimane debitore nei confronti dell'erario di questa somma, solo che al posto che avere sia una condanna, sia di essere debitore nei confronti dell'erario di questi 180.000 euro, non avrà anche la condanna penale dell'arresto poi convertita. Quindi non avrà una doppia condanna, ne avrà una sola, perché il contenzioso tributario è basato su elementi oggettivi, il contenzioso, il processo penale richiede un qualcosa in più, richiede il dolo, cioè coscienza e volontà di commettere un reato, e lui sinceramente la volontà di non pagare non ce l'aveva, non aveva proprio la possibilità, era impossibilitato a pagare. Spero che questa cosa sia arrivata, che è una cosa ulteriore ed è una cosa che non vuol dire io non devo pagare le tasse, io le devo pagare, però ci sono delle situazioni e tanti imprenditori le vivono. Immagino che voi ve ne occupiate di queste cose, insomma, normalmente se l'imprenditore si è rivolto a voi. Avete altri casi simili? Ce ne capitano diversi. Non in tutti i casi, per una serie di circostanze, questa è la prima sentenza che abbiamo in questo senso, non sempre riusciamo per volontà del cliente, per le scritture contabili che non ce lo consentono, ad arrivare a fare un'opposizione al decreto penale di condanna e quindi a fare proprio il giudizio, però ne sono capitate tante perché comunque il processo, la vita giudiziaria è comunque lo specchio della vita reale, se c'è una situazione di crisi, come anche lei ha fatto presente agli ascoltatori, in cui gli imprenditori non riescono a pagare, poi tutto questo si riflette nella realtà giudiziaria, nella realtà dei processi, solo che non sempre per la tenuta delle scritture contabili, per varie situazioni contingenti, si ha la possibilità di andare oltre. La ringrazio, grazie all'avvocato Marco Petrone per essere stato con noi. Allora, noi adesso ci dobbiamo fermare per il giornale radio, naturalmente, le notizie che sono sempre importanti. come sempre, il numero per intervenire via SMS è 349-238-6666. Dopo, subito dopo il GR, parleremo di euro e parleremo di settore auto. E però, in apertura vi dirò perché è arrivato l'SMS di quell'ascoltatore, Agenzia Cuori Infranti, Focus Economia, l'SMS dell'ascoltatore che diceva di Virginia, mi piacerebbe, la bella notizia sarebbe che Virginia tornasse con me. Ebbene, adesso abbiamo il nome, quindi Virginia, se sei in ascolto, attendi e dopo il GR ti diremo chi è. Focus Economia. Eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, care ascoltatrici e cari ascoltatori. A inizio trasmissione vi avevamo chiesto, dato che insomma c'è un ascoltatore che ci accusava via SMS di dare solo notizie negative, vi abbiamo detto dateci delle buone notizie voi. Ci ha scritto uno tra voi dicendo la bella notizia sarebbe che Virginia tornasse con me. Abbiamo lanciato l'appello, adesso abbiamo anche il nome dell'ascoltatore che prima non si era firmato, Alessandro. Quindi Virginia torna con Alessandro se sei in ascolto e dacci una buona notizia. Scherzi a parte, parliamo di cose serie, anzi anche questa è una cosa serissima per carità, però parliamo delle cose serie che riguardano questa trasmissione, ossia l'economia. L'euro ha toccato quota 1,382 dollari, massimo da novembre 2011, approfittando tra l'altro anche della debolezza della moneta americana. Marco Fortis, docente di economia industriale alla Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi tutti. Esperto, e quindi, dato che sapete, quando chiamiamo Fortis in genere ci occupiamo di export, di esportazioni, insomma della nostra presenza sul mercato estero. E quindi avete capito dove vogliamo andare a parare. Su quanto, secondo lei, professore, questa forza dell'euro, innanzitutto se si è fatto un'idea a cosa è dovuta, perché non è di oggi questa ascesa dell'euro, insomma, oggi abbiamo toccato un picco, ma il picco no, segue una serie di rialzi, evidentemente, e poi soprattutto quanto ci può danneggiare, visto che abbiamo un mercato interno devastato, e quindi è su quello che ci dobbiamo basare, sull'export, per poter agganciare un minimo di ripresa. Prego. Beh, certamente, proprio perché la domanda interna è oggi bloccata, non soltanto in Italia peraltro, ma un po' in tutta l'area della moneta unica, avere un tasso di cambio che si impenna non è una cosa positiva, perché le prospettive di ripresa in queste condizioni del mercato domestico, dove tutti stanno ancora cercando di contenere i deficit statali e dove in alcuni paesi vanno ridotti anche i debiti privati che non sono finiti, l'export rappresenta il principale veicolo di crescita. E il tasso di cambio dell'euro in questo momento è decisamente troppo elevato rispetto non solo ai competitor dei paesi europei dell'eurozona, ma anche rispetto a mercati emergenti nei quali i nostri competitor appunto sono presenti e cercano di sottrarre quote di mercato ai paesi europei. E su questi mercati emergenti, voglio ricordarlo, il tasso di cambio dell'euro si è rafforzato molto in questi ultimi 12 mesi, per esempio rispetto all'euro il real brasiliano si è svalutato del 13,6%, la rupia indiana del 17,8%, e anche verso la lira turca, la svalutazione della lira turca si è svalutata sull'euro del 14,5%. Siccome abbiamo perso competitività su questi mercati, mentre la svalutazione del dollaro verso l'euro è stata solo del 6,3%, è chiaro che abbiamo un duplice effetto: ad una prima svalutazione verso la moneta universale di riferimento che è il dollaro, si vanno a sommare anche le svalutazioni dei mercati in cui dobbiamo vendere i nostri prodotti. Tra l'altro, leggevo nei giorni scorsi, in realtà sono notizie dei dei giorni scorsi, se vogliamo, perché appunto questa crescita dell'euro non è di oggi, come già ci diceva lei. Segnali di preoccupazione arrivano anche da grandi colossi europei, penso a Hervé Maas, che ha espresso preoccupazioni per questa crescita dell'euro, penso a SAP, che è produttore di software aziendale e che è anche quello un colosso mondiale ed è tedesco. Allora, a questo punto, se esprimono preoccupazioni colossi come Hervé Maas e SAP, le nostre cosiddette multinazionali tascabili, che tanto fanno del nostro export oggettivamente, beh, insomma, di preoccupazioni, probabilmente anche perché spesso sono meno strutturate di queste grandi aziende, di preoccupazioni dovrebbero avere qualcuna di più, o no? Beh, diciamo che da un rafforzamento dell'euro così generalizzato verso tutte le monete, non solo verso il dollaro, se fossimo stati, se questa situazione si fosse presentata 10 anni fa, quando ancora la nostra specializzazione internazionale non si era positivamente modificata come quella che abbiamo oggi, ci sarebbe stato veramente da mettersi le mani nei capelli, perché oggi siamo molto più venditori di lusso nella moda che non 10 anni fa e più venditori di tecnologie, ad esempio meccaniche, che non 10 anni fa. Quindi sono prodotti che comunque anche con un cambio un po' più forte si può riuscire lo stesso a vendere, perché le tecnologie sono apprezzate e si paga per comprare. Lo stesso fanno i nuovi ricchi dei paesi emergenti, che cercano il lusso e sono disposti a spendere. Tuttavia c'è anche qui un equilibrio da considerare, perché da una parte il Giappone, che ha svalutato praticamente sull'euro quasi oltre il 23% negli ultimi 12 mesi ed è un forte competitor nella meccanica, è oggi diventato assai più competitivo di quanto non fosse 12 mesi fa nella meccanica rispetto all'Italia e alla Germania, che sono gli altri due protagonisti della meccanica nell'export mondiale. E nello stesso tempo anche per i cinesi ricchi, i russi ricchi e gli indiani ricchi, quando si svalutano le loro monete del 15-20% sull'euro, diventa un po' più caro comprare anche il lusso, quindi non è detto che tutti i ricchi smettano di comprare, ma c'è una ricaduta negativa che si vede. Le vendite di calzature italiane in Russia hanno subito un contraccolpo negativo dalla forte svalutazione del rublo. Allora, professore, io adesso la fermo. Ha ragione l'ascoltatore Pietro da Milano, che pur in maniera un po' brusca ci dice: occhio però che questo ha anche un impatto evidentemente sulle materie prime, insomma, il petrolio in questo modo sostanzialmente lo paghiamo di meno, per dirla molto semplice. Questo è perfettamente naturale. La vorrei riprendere dopo la viabilità, professore, per farle commentare una notizia che è stata battuta da poco dalle agenzie e che secondo me è interessante ed era secondo me uno sviluppo prevedibile di tutta la vicenda Datagate. Abbiamo il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, tedesco, non lo dico a caso perché in questo caso non sappiamo se parla presidente del Parlamento europeo oppure no, dice che ora bisogna sospendere i negoziati aperti per arrivare ad un accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti. Era già successo qualche mese fa, quando lo scandalo esplose, e vorrei un commento da lei, ma dopo la viabilità. Focus Economia. Dunque, professor Marco Fortis, docente di economia industriale alla Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, esperto anche di commercio estero. Dunque, professore, come commenta queste parole di Martin Schulz? Probabilmente sono parole tedesche, parole del governo tedesco per interposta persona. Questo non lo sappiamo, però diciamo, forse possiamo immaginarlo. Che cosa dice? Presidente Schulz è una persona che si è mostrata molto equilibrata e credo che parli a nome un po' di tutta l'Europa. La sua è certamente una reazione stizzita, che fa anche pesare sugli Stati Uniti questa oggettiva figuraccia che gli Stati Uniti stanno facendo. Hanno appena scongiurato un deficit fiscale, ne hanno ora uno di immagine gigantesca con questa vicenda che appare anche piuttosto grottesca. Io mi auguro però che, visto che molti in Italia, le industrie e il governo puntano molto su questo negoziato con gli Stati Uniti, perché il nostro paese ne avrebbe da guadagnare per diverse ragioni, ecco, che questa sia solo una reazione diplomatica per far pesare sugli Stati Uniti questa situazione appunto particolarmente grottesca e negativa, ma che non vengano pregiudicati i negoziati nel medio termine, perché credo che sarebbero nel nostro stesso interesse. Secondo lei c'è qualcuno, per esempio i tedeschi, molto brevemente, che ha interesse a frenare su questo negoziato? Ma non credo questo, perché comunque diciamo le possibilità di avere un grande mercato atlantico con un incremento degli scambi tra Europa e Stati Uniti ha una logica molto, molto importante. Anche i tedeschi hanno nel mercato americano un mercato di riferimento importantissimo. Mi auguro appunto che sia solo strumentale questo richiamo al negoziato sugli scambi tra Stati Uniti e America per far pesare sugli Stati Uniti la reazione europea in modo tangibile ed evidente. Grazie professor Marco Fortis per essere stato con noi e buona serata naturalmente. Grazie a voi. Noi adesso ci occupiamo di auto. Gianprimo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, eccoci, buonasera. Buonasera. Allora, i dati sono li ha elaborati lei, oggi pubblicati dal Sole 24 Ore. L'Italia rischia di trovarsi nel 2013 con una produzione pari a quella del 1958. Dato che viene pubblicato oggi al Sole 24 Ore nel giorno nel quale la Gran Bretagna invece annuncia che con la produzione di autoveicoli arriva al livello pre-crisi. Impressionante. Ma per dare a Cesare quello che è di Cesare, io ho soltanto fornito al Sole dei dati che fanno parte di una statistica ufficiale nota da molto tempo e che è stata stilata dall'ANFIA, i dati sulla produzione di autovetture nel nostro paese dal 1950. Però di fatto è vero, la produzione di autovetture si sta collocando su livelli che erano stati toccati nel 1958. Quindi questa è il dato che riguarda la produzione. Per quello che riguarda le vendite, invece, il mercato italiano chiuderà quest'anno con ogni probabilità con 1.300.000 immatricolazioni, quindi con un calo rispetto ai livelli antecrisi del 50%, mentre il prodotto interno lordo è calato del 9% e la produzione industriale del 25%. Quindi il settore dell'auto è nel nostro paese particolarmente penalizzato sia per quanto riguarda la produzione ma anche per quanto riguarda le vendite sul mercato interno. Dati molto pesanti. Saluto Roberto Iotti del Sole 24 Ore che firma un commento tra l'altro a proposito di questo oggi sul quotidiano. Roberto, buonasera. Ciao Simone, buonasera agli ascoltatori. C'è un interessante raffronto con la Spagna nel tuo commento. Sì, sono partito dalle conclusioni che c'è stata le settimane scorse un incontro fra l'Associazione dei costruttori di automobili in Spagna, ricordando che la Spagna non ha una tradizione forte e consolidata di costruzione di automobili come possono avere la Gran Bretagna, la Germania e l'Italia. L'unico marchio che c'era era la Seat, che oggi è di proprietà di Volkswagen. La curiosità era che la Spagna chiuderà il 2013 con una produzione di automobili di 2,2 milioni di unità e le previsioni per il 2014 sono di arrivare al 2 milioni e 300 mila unità. La curiosità stava proprio nel fatto che la Spagna è diventata 5 volte la produzione italiana? Praticamente 5 volte la produzione italiana, se, come appunto diceva anche prima Gianprimo Quagliano, arriveremo a produrre poco meno di 400 mila automobili a fine 2013. Il dato interessante però di tutta questa situazione è che la Spagna è riuscita ad attrarre non solo i grandi costruttori europei che hanno costruito piattaforme e unità produttive nel proprio paese, investendo 4,5 miliardi e ricordando che negli ultimi 2 anni dalle fabbriche spagnole sono usciti i 20 modelli più nuovi che i costruttori europei hanno immesso sul mercato europeo. Perché tutta questa situazione? Per il semplice fatto che il governo Rajoy ha deciso 2 anni fa di puntare tutto sull'industria manifatturiera, lasciando ovviamente quello che era stato il discorso della bolla immobiliare e ritornando un po' all'antico, cioè all'industria manifatturiera, in particolare all'auto. Auto vuol dire creare nuovi posti di lavoro. Auto ha significato creare anche un indotto non indifferente. Ricordo che solo in Italia l'indotto nel settore automotive più quello del, diciamo, automotive e motive, cioè gli distretti della produzione delle motociclette, valgono circa 40 miliardi di euro come produzione, valore della produzione. La Spagna in questo ci sta superando. Dato interessante, così come Quagliano, è interessante quello che è arrivato oggi dalla Gran Bretagna, dal Regno Unito. Esplosione delle esportazioni, il 79% della produzione è destinata all'estero. Nel periodo settembre 2012-settembre 2013 1,5 milioni di auto, registrando un aumento rispetto all'anno precedente del 9%. Da tenere presente tra l'altro che loro nemmeno hanno più aziende di proprietà inglese praticamente, no? Sì, è così. Ma per completare il quadro bisogna dire che anche in Germania la produzione di autovetture è molto superiore alla capacità di assorbimento del mercato tedesco, che ha una capacità di assorbimento molto forte perché si vendono 3 milioni di automobili nel mercato tedesco, mentre la produzione è oltre i 5 milioni. Anche in Francia c'è una produzione di tutto rispetto. Questo significa che l'automobile oggi è un prodotto che si può continuare a produrre nei paesi anche di antico sviluppo economico, quindi non è un prodotto che deve essere necessariamente per ragioni di costo prodotte in terre lontane, si può produrre benissimo nei nostri paesi. E allora perché in Italia c'è questa situazione? Beh, intanto c'è una situazione generale, un contesto generale che non favorisce da molto tempo l'industria e in particolare la grande industria. Il caso dell'automobile è il più emblematico, il più significativo, ma non è l'ultimo. Poi in Italia c'è stata una vicenda da parte della Fiat che si è trascinata per molti anni con una situazione molto difficile che aveva portato il nostro maggior produttore, prima che intervenisse la gestione attuale, sostanzialmente sull'orlo del fallimento. E questo perché molti anni fa si è deciso in Italia, il costruttore nazionale ha deciso in Italia di non puntare più sostanzialmente sull'automobile, mentre tutti gli altri si concentravano sull'automobile, produttori di automobili, sul core business come si dice, ha pensato di diversificare, abbandonato dei settori molto importanti come quelli delle auto premium, che sono quelli che sono i margini maggiori, e questo portò appunto a una situazione di quasi fallimento prima che entrasse la gestione attuale. Poi la gestione attuale ha cercato di rimediare, però si è inserito nel discorso la grave difficoltà del mercato interno e quindi ci troviamo in questa situazione. C'è però una notizia di oggi che è molto interessante ed è il tavolo, la consulta per l'automobile che è stata costituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico e che si riunirà il 25 novembre ancora, e che appende, fra l'altro nella riunione di oggi è stato presentato il programma di investimento di Fiat in Italia, che dovrebbe non solo contrastare questo declino della produzione di automobili in Italia, ma dovrebbe rilanciarlo. Quagliano, grazie a Gianprimo Quagliano. Noi dobbiamo chiudere, io so che magari Roberto Iotti sul tema della consulta per l'automobile qualcosina da dire lo avrebbe, ma ve lo leggete domani sul Sole 24 Ore. Un ringraziamento a Pietro La Corte in regia, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo domani con Effetto Giorno alle 13 in diretta con Focus Economia. Ci sarà Deborah Rosciani. Radio 24. La passione si sente.